tardes, yo soy el doctor español otra vez y coño, que estuve 3 años en Galicia, pero he vuelto con más conocimiento sobre los mecanismos de control social y debo decir que esto de hoy en día del conformismo y el sometimiento absolutamente masivo de la ciudadanía esclava es una maldita enfermedad, coño, ¿qué es esto de que el Estado y la policía torturan, cierra, roba y nadie hace nada, coño? Empresarios dueños de la salud, de los mares, de los bosques, de las agropecuarias, de la maldita caca que hacemos todos los días y la gente trabajando y viendo tele, pero qué desgracia. Érase una vez una sociedad humana dominada por un gran imperio mundial. Después de la caída del Imperio Romano, del Imperio... Sono le 9:10, secondo me iniziamo. Iniziamo? Non fare aspettare. Sì, inizia. Aspetta che devo... Cosa aspetta? No, la cosa che devo leggere, non la trovavo, era qua. Mi stava venendo il panico. Vabbè, iniziamo, speriamo che poi magari con calma, magari non troppa, arrivi anche altra gente. Grazie di essere qua, ci tenevamo a questa iniziativa, anche se non è stata fatta prontamente appena sono successi i fatti in Cile, però vabbè, abbiamo cercato di organizzarla nel migliore dei modi possibili e come... volendo essere uno dei l'inizio o un altro inizio di una serie di approfondimenti, di momenti, di mobilitazioni. Il perché di questa iniziativa è perché riteniamo importante, oltre a portare la solidarietà con questa lotta in Cile, in questo caso, anche perché i contenuti che porta avanti questa lotta appunto sono molto molto interessanti anche in una, nella società occidentale, in una città come Milano. Le lotte dei popoli latinoamericani in generale, quindi da Haiti alla Bolivia, all'Ecuador, il Cile appunto e in altri paesi, sono lotte che sono fortemente di classe e hanno un'efficacia e un'incisività poi sul proprio territorio che si possono osservare. Per questo che queste lotte che si stanno organizzando, che seppur all'inizio sembrano attivarsi e organizzarsi per contrastare le politiche di taglio, di austerity messe in atto dai governi locali, succubi dell'FMI degli Stati Uniti, queste lotte diventano appunto poi conflitti proprio di classe contro l'imperialismo e il capitalismo. Quindi vabbè, adesso ci faranno i compagni qua di fianco a me un aggiornamento sulla situazione in Cile e alla fine faremo anche una videochiamata con un compagno che è proprio adesso in Cile, dove ci sarà appunto anche un corteo, vabbè, poi spiegherete bene per cosa, per chi, eccetera. Niente, alla fine, oltre a condividere le riflessioni che spero che escano, volevamo proporvi un'idea di mobilitazione in solidarietà e di lotta appunto anticapitalista nel nostro territorio. Grazie. Oh, è troppo alto per me. Io sono piccola. Buonasera. Prima di parlare un po' dall'inizio di questa rivolta popolare in Cile, volevo anche condividere queste foto che stanno qua passando, che state vedendo. Sono da un compagno, dal compagno che farà dopo il collegamento dal Cile, un compagno che già ha vissuto la dittatura di Pinochet, che è stato anche un prigioniero politico di quella dittatura e che è anche un fotoreporter indipendente. E lui ci ha mandato questo materiale che in quasi questo un mese di rivolta popolare in Cile lui è riuscito a scattare nelle proteste, nelle manifestazioni delle strade in Santiago. E lui ci ha scritto anche un testo che mi piacerebbe condividere con voi, che dice: sono queste alcune delle immagini della rivolta cilena, un'esplosione sociale che ha sputato in faccia ai potenti, ai traditori comodi sulle loro poltrone, a 30 anni di abusi e ingiustizie sociali. Sono immagini che dimostrano la rabbia viva di un popolo che comincia ad aprire gli occhi dopo 3 decenni di sonno. Sono il ritratto della strada che migliaia abbiamo percorso per anni masticando impotenza. Le strade che oggi ci accelerano il battito, ci arrissano i peli e ci commuovono profondamente. Le strade che oggi sono testimoni di una gioventù coraggiosa e senza paura di fronte alla risposta violenta dei privilegiati. È lì quella gioventù, protagonista in prima linea del combattimento, lì dove inizia il cambio totale e dove si partorisce un paese distinto. Nei loro corpi seminudi, nella consegna e nell'audacia che rimarrà scritta con piombo. Immerso in prima linea, ho vissuto a fondo questa meravigliosa rivolta degli insoddisfatti. In prima linea, questa gioventù mi offre il privilegio di essere testimone di una onda di ribellione imparabile. E così il mio registro fotografico si è impregnato di sudore e di profumo di insolenza, di abbracci solidari e aiuto reciproci nel momento di bisogno. Sono fortunato di poterlo vivere. Sono felice di condividerlo con tutti e tutte voi, in modo che si sappia che in questo angolo del mondo nessuno si arrende, cazzo. Allora, noi siamo partiti con questa ribellione cilena il 18 ottobre, quindi siamo vicini a un mese di questa ribellione che fortunatamente non si ferma, la lotta va avanti nonostante tutta la repressione e la violenza che continua a applicare il governo fascista di Sebastián Piñera. Dobbiamo anche capire e ricordare che tutto questo che sta succedendo oggi non inizia tra virgolette per questi 30 pesos che erano aumentati sul biglietto della metropolitana, però che alla fine era come il pretesto di un scoppio di stanchezza sociale, politica e economica di un paese che si porta dietro una dittatura così forte e crudele come quella di Pinochet. Quindi purtroppo dobbiamo tornare indietro di quella dittatura del 73 e di quella Costituzione soprattutto che oggi è una delle grandi domande del popolo cileno, la Costituzione degli anni 80 che fu creata durante la dittatura di Pinochet. Una dittatura, una Costituzione totalmente basata nel modello neoliberale in cui il capitalismo ha le porte aperte in Cile da quella epoca, in cui dove le multinazionali senza consultare i popoli originari come il popolo Mapuche portano i suoi progetti. E tutto questo in nome di un falso progresso e di tanti profitti per i soliti, no? per gli impresari cileni e non cileni, per gli latifundisti, per le multinazionali soprattutto. La Costituzione di Pinochet ha aperto le porte fino a oggi a un sistema neoliberale che ha schiacciato la vita sociale e economica delle persone in Cile. E le differenze sociali sono grandissime, noi lo sappiamo, e questa Costituzione nessun governo l'ha toccata. Abbiamo avuto 17 anni di dittatura con Pinochet, per cui quando parlano che sono 30 anni, mi viene da pensare, già anche un compagno e una compagna me lo hanno detto, per noi sono 47 anni, non sono 30, perché dobbiamo anche sommare purtroppo i 17 anni prima, di prima che arrivasse il plebiscito del 1989, che si è fatto in dittatura di Pinochet, che ci ha chiesto a noi cileni e cilene in quell'anno lì, e nel 1989, se volevamo o no continuare con la dittatura. C'era un sì o c'era un no. C'erano le due campagne in quel tempo lì, e la prima volta che io ho votato sempre mi ricorderò, e penso che sia l'ultima, dopo tutto quello che è successo. Ed è quando è stato quel plebiscito che ha detto no a Pinochet, veniva, tra virgolette, di quel periodo lì, l'allegria del popolo cileno, perché quello diceva la campagna del no, l'allegria già arriva. Sono passati 30 anni dopo la fine della dittatura di Pinochet e l'allegria non è mai arrivata. E la democrazia non è mai esistita, perché tutti i governi precedenti a Pinochet, e parliamo di governi di destra e di sinistra, governi socialisti come quello di Bachelet, o governo partito per la democrazia come Ricardo Lagos, o democrazia come Frei. Ricordiamo che questo è il secondo mandato di Piñera, non è il primo in questi 30 anni. Nessuno di quei governi lì che avevano promesso tanti cambiamenti, no, per il popolo cileno, a partire delle grandi esigenze, che alla fine sono i diritti delle persone, di noi persone, in questo caso dei cileni e delle cilene, come l'educazione, un'educazione, una salute che non sia privatizzata, un fondo di pensione che non sia privatizzato, tutto questo non è mai successo. La Costituzione di Pinochet non è stata mai toccata per nessuno di questi governi. Ci sono stati impegni a parole, però i fatti sono rimasti quelli che abbiamo vissuto fino a oggi. L'educazione in Cile è privata, la salute in Cile è privata, abbiamo un fondo di pensione che è privato, perché tutto è diventato un negozio per i grandi impresari cileni, ricordando che il Cile è in mano a tre grandi famiglie straniere come Lupsic, come Mate, come Angelini, sono due famiglie di coloni italiani. E la nazionalizzazione del rame che c'era stata con Salvador Allende, dopo con l'arrivo di Pinochet, ovviamente è tornata come prima, a essere in mano di capitali stranieri, che la grande risorsa economica del Cile è il rame, no? E, che altro era, a parte la salute, l'educazione, il fondo pensione? E soprattutto un tema che a noi, grazie Lucy, un tema che a noi ci tocca tanto come Rete Mapuche, è la privatizzazione dei beni comuni. Beni comuni intendo soprattutto in Cile è l'acqua. E l'acqua in Cile è una risorsa economica, anche durante la dittatura di Pinochet ci sono stati questi codici dell'acqua e anche la legge forestale, in che questi beni comuni naturali sono stati privatizzati e sono andati direttamente ai grandi impresari multinazionali stranieri. E l'acqua in Cile si paga, qua in Italia, per dire un esempio, arriva la bolletta del gas e della luce, in Cile arriva anche la bolletta dell'acqua. è l'acqua, la stessa acqua che in queste, dal 2009 Enel, multinazionale italiana, è proprietaria. Dal 2009 Enel ha in mano l'82% dell'acqua. Enel arriva in Cile i primi tempi attraverso progetti idroelettrici in territorio Mapuche. Due grandi progetti sono nel sud del Cile, diciamo, nella zona d'Aysén e la zona di Panguipulli, dove le comunità Mapuche tutti questi anni hanno lottato per la devastazione di questi territori. E anche perché non solo diventano proprietari delle terre, sino diventano anche proprietari dell'acqua. E quindi, diciamo, la privatizzazione dell'acqua va prima a colpire la comunità Mapuche e dopo va a colpire lo che è la popolazione cilena, già che Enel diventa la fornitura anche domestica, per dire così. E quindi c'è anche questa, tra le domande che oggi sta seguendo il popolo cileno, è questa anche la non privatizzazione dell'acqua, e che si possa godere di questo elemento, come sempre ha detto il popolo Mapuche, come parte della umanità. E quindi, dammi il quaderno. E quindi diciamo che questo ha fatto scoppiare quello che oggi stiamo vivendo in Cile, la mancanza di diritti che ci corrispondono come persone, già che al momento che questa Costituzione non è stata toccata, diciamo che sotto questa Costituzione continuano a essere applicate le stesse leggi sulla privatizzazione di tutto quello che c'è in Cile e che ovviamente non è alle mani di tutte le persone, soprattutto del settore più povero e più debole economicamente. Sono stati 30 anni in cui abbiamo sentito solo promesse. Il capitalismo attraverso le multinazionali, come dicevo prima, io ho nominato solamente Enel, però Cile, il territorio Mapuche è pieno di multinazionali, ha fatto, anche se ci sono convenzioni internazionali che richiedono l'approvazione della popolazione, richiedono anche l'approvazione delle comunità indigene, lo Stato cileno neanche ha rispettato questo. Abbiamo vissuto anche 30 anni e 47 anni di repressione poliziale tremenda, perché no, perché Pinochet è andato via nell'89, la repressione si è fermata. Noi in questi 30 anni, lo dico anche noi, perché noi abbiamo vissuto anche la dittatura di Pinochet, anni 85, 86, 87, noi eravamo dei ragazzi delle scuole, anche noi abbiamo fatto tutte le manifestazioni studentesche. È anche molto triste e molto indignante vedere che in questi 30 anni la repressione, la violenza poliziale è veramente orribile, è veramente dura, la stessa che oggi sta applicando Sebastián Piñera. C'è una giustizia ovviamente che non funziona, una giustizia che è inesistente, perché tutti questi delitti, tutti questi crimini di Stato rimangono impune. C'è una grande corruzione tra i governi, e tra tutti i poteri giudiziali, tra la polizia, e quindi ovviamente così le cose non possono funzionare per il popolo. Oggi la situazione in Cile, anche se si parla sempre di meno, è come quella di prima, in quanto a repressione, in quanto a violenza. E i dati purtroppo continuano a aumentare. Piñera sta applicando le stesse metodologie di violenza e di repressione della dittatura di Pinochet. Avevamo detto tante volte noi cilene, mai più in Cile, no? Nunca más in Cile. Invece oggi lo stiamo vivendo ancora nuovamente. Ci sono, per far capire un po' le cifre, quelle che sono più o meno chiare e ufficiali, si sono in questo momento più di 5.000 detenuti e detenute, di cui 1.200 di loro in questo momento si trovano in prigione preventiva. Cioè, in carcere in questo momento ci sono 1.200 persone in carcere preventiva, di quelle 5.000 che sono state detenute. Che questo è anche una cosa che ci parlerà il compagno, perché si è parlato molto poco della situazione carceraria che si sta vivendo in questo momento in Cile, che è veramente devastante e vergognosa. Desaparecidos, le persone desaparecidas, il dato non è ufficiale, perché ieri mi raccontava una compagna che si stanno contando come desaparecidos solo le persone che hanno fatto una querela giudiziale. Quelle persone che non hanno fatto una querela giudiziale perché hanno paura di avvicinarsi ai poteri giudiziali o perché per modalità loro stanno cercando questi parenti, questa famiglia, ovviamente non hanno fatto una querela legale. Quindi lei mi diceva che ci sarebbero circa 130 persone desaparecida, però che non c'è neanche la metà che ufficialmente è stata dichiarata come tale. I feriti sono circa 2.000, e lì sta girando anche una foto. La gran parte dei feriti sono stati colpiti di queste pallottole di gomme alle occhi, perché diciamo che questa è anche una strategia per colpire le persone, no? Sparano direttamente alle occhi, che è quello che anche fanno gli israeliani contro il popolo palestinese, solo con la differenza che ci raccontavano anche che in 5-6 anni di guerra, di guerra in Israele contro il popolo palestinese, le cifre sono molto meno di quello che è successo in Cile in 18 giorni. In 18 giorni in Cile c'erano 170 persone già ferite per spari di colpo di pistola, che in confronto a quello a 5 anni, 6 anni che è successo in Israele contro Palestina non è niente. Purtroppo ci sono state anche le violazioni sessuali contro donne che sono state fermate nelle proteste, sono portate in commissariato, di cui solamente ci sono 12 12 dichiarate, perché tante, come dicevamo prima, no, anche per paura non hanno voluto fare denuncia. E quindi anche questo è un fatto molto doloroso, già che le donne sono state violentate dai carabinieri e anche dai militari, e anche i ragazzi sono stati violentati da carabinieri e da militari. E quindi diciamo che i morti ufficiali sono 20, però la compagna mi diceva che sono, loro hanno un conto di 52 persone, 20 morti che sono state accertate per lo Stato, tra virgolette, e che le altre, per motivo che ovviamente sappiamo di nascondere, però che le cifre arriveranno a 52 persone in questo momento. E quindi questo, almeno come date statistiche, purtroppo aumenteranno, perché la repressione, come diceva prima, anche se non sono tante notizie come prima, come i primi giorni, la repressione non si è fermata neanche un giorno. Tutti i giorni ci sono manifestazioni in Cile, in tutto Cile, soprattutto Santiago. Tutti i giorni c'è una motivazione per scendere in piazza, e la repressione è la stessa di prima. Stanno applicando la stessa violenza, le stesse dinamiche di dittatura. E oggi, per dire, c'è una grande manifestazione a Santiago, in tutto Cile soprattutto, che si commemora un anno dell'assassinio de un compagno mapuche, de Camilo Catrillanca, che è stato assassinato l'anno scorso, e quindi oggi c'è questa commemorazione, questa grande manifestazione dedicata a lui. È stato assassinato l'anno scorso per il comando Jungla di Piñera, che è lo stesso comando che oggi sta anche reprimendo non solo la comunità mapuche, anche il popolo cileno. Quindi oggi la manifestazione si promette anche abbastanza, come si dice, movimentata, perché la repressione non perdona. E voglio dire che anche qua le sbirre, perché non parliamo solamente di sbirri, anche le sbirre, le donne, non hanno nessuna, diciamo, misura in quanto a repressione e in quanto a violenza, già sia contro, non solo contro gli uomini, anche contro le donne, perché anche donne sono state violentate delle sbirre donne in maniera veramente tremenda. E quindi noi diciamo, come in Cile, che la spacca non sono nostre amiche. Io sono una femminista comunitaria, mi dichiaro sempre, comunitaria territoriale, però noi anche denunciamo la violenza dello Stato, la violenza poliziale, la violenza del carcere, la violenza capitalista, estrativista, che soffrono i nostri compagni e compagne nei diversi territori, e anche se sono femminista, che è molto diverso di quello che sto dicendo adesso, anche abbiamo sbirre, donne che applicano questa violenza contro le nostre compagne e anche questi nostri compagni, e questo anche di denunciare e di, come si dice, di denunciare e di far capire che la repressione non ha nessun limite in questo momento in Cile. Ok, dopo questa presentazione, un po' anche per informare su quello che è successo in Cile, su quello che sta succedendo, ho iniziato un po' a indagare tramite compagni che ci sono all'interno dei quartieri popolari, che si organizzano all'interno dei quartieri popolari, un po' per gli aggiornamenti della situazione in questo momento, no? Diciamo che anche da parte dello Stato ci sono stati degli aggiornamenti, quindi lo Stato ha fatto delle proposte di legge per sedare, diciamo, questa situazione. E le proposte sono comunque cose che non aiutano concretamente in realtà la problematica delle persone, del popolo. E alcune di queste sono l'aumento delle pensioni, però si parla di 20 euro in più. E mettere delle tariffe fisse anche ai beni comuni, quindi l'acqua, i mezzi di trasporto, la luce e cose del genere di questo tipo. E, hanno detto che avrebbero abbassato i salari dei parlamentari, ma allo stesso tempo non è successo niente, non è cambiato niente a livello parlamentare. E dicono che ci saranno anche delle sanzioni molto pesanti per chi manifesta e chi è in prima linea, diciamo, a lottare in piazza, quindi delle sanzioni molto pesanti per i manifestanti, e quindi per chi saccheggia, secondo loro, per chi incendia i supermercati piuttosto che le banche e così via. Ma in realtà, come avevamo detto nell'assemblea scorsa, ci sono comunque dei montaggi da parte della polizia, quindi anche polizia infiltrata, che appicca questi incendi e poi scatena le strategie dello shock per destabilizzare un po' la popolazione. Quindi una serie di cose che il popolo non sta accettando. Ma dal quartiere ci arrivano delle informazioni un po' più concrete, quindi anche a livello un po' più rivoluzionario, che secondo me è una delle cose che ci interessa un po' di più per capire quali possono essere le nostre prospettive future come popolo cileno, no? E parlando con questo compagno ci raccontava che c'è quella parte istituzionale, quindi partitica, del Cile, quindi parliamo del PC, parliamo del Fronte Ampio, che è la sinistra cilena in questo momento, che sta chiamando un'assemblea costituente. No, questa assemblea costituente in pratica vuole invitare le persone a votare per cambiare la situazione, per cambiare il governo. Ok, però quello che si dice nei quartieri popolari, dove c'è una forza rivoluzionaria, chiamiamola così, che c'è una forza rivoluzionaria, i compagni stanno dicendo che se succede questa cosa qua, se la massa, se il popolo segue questa opzione che sta dando questi partiti politici, vuol dire portare via dalla piazza le persone, portare via dalla piazza la massa che in questo momento è sulle strade. E secondo loro, se lasciano la piazza, è finita. Perché così le persone se ne stanno a casa tranquillamente e dicono: ok, il momento in cui andremo a votare per questa assemblea e il sistema cambierà. In realtà la parte rivoluzionaria dice che questa cosa qua è solo per sedare la situazione che c'è in questo momento. E quindi il quartiere si sta organizzando in altri modi. Nei quartieri ci sono i cabildo, che sono delle piccole assemblee a livello di quartiere, dove partecipano non 20 persone, ma partecipano 1500 persone, ok? Dove sono tutti formati in un certo senso, hanno tutti dei punti in comune per cui lottare, hanno tutta una visione rivoluzionaria sulla questione, quindi cercano di non scendere a compromessi, ma allo stesso tempo si cerca di creare una socialità fra il quartiere, creare una socialità fra le persone per costruire un percorso rivoluzionario, per cambiare questa situazione. Ma allo stesso tempo lo Stato risponde cercando di dividere allo stesso tempo la massa dalla parte rivoluzionaria e allo stesso tempo creare una specie di dei fondi monetari, di recuperare dei soldi tramite le banche, tramite lo Stato, per salvare anche allo stesso tempo le piccole grandi aziende. Okay? Quindi sta cercando di dividere la piccola borghesia che all'inizio era uscita in piazza insieme al popolo, cercandole di dare dei contentini per far sì che il movimento venga spezzato. E questo vuol dire creare un po' allo stesso tempo una distruzione del movimento, perdere forza. Ma tante piccole e grandi aziende lo stanno facendo, le medie aziende lo stanno facendo, perché allo stesso tempo il Cile ha delle assicurazioni verso le aziende, cioè se in caso ci sono delle aziende che perdono capitale per X motivo, che può essere anche hanno avuto delle produzioni, è successo questo per un mese, le merci sono ancora ferme, abbiamo dei soldi da recuperare, lo Stato lo può pagare. E questo vuol dire che non è che lo fa pagare ai parlamentari, non è che lo fa pagare alla classe dirigente, ma lo fa pagare al popolo. E quindi è come salvare delle aziende che hanno anche un concetto non verso il popolo, ma imprenditoriale, quindi di padrone, che domina, diciamo, l'economia, perché allo stesso tempo la maggior parte delle aziende che ci sono in Cile, i lavoratori sono quelli che sono in questo momento per strada, e quindi ci sono queste dinamiche che lo Stato sta cercando di fare per dividere la massa. E quindi nei quartieri popolari si fanno questi cavilli dove la gente si organizza, cerca di fare delle attività ogni giorno, e allo stesso tempo partecipano, come dicevo, 1500 persone che fanno dei cortei nelle piccole zone dove loro possono lavorare e hanno delle risposte molto più forti. Invece quella parte che vuole fare l'assemblea costituente, che allo stesso tempo dice sì, noi vogliamo portare la votazione per cambiare questo governo, però sulla questione della piazza non si mettono a interrogarsi molto. Sappiamo anche che i partiti in un certo senso vogliono utilizzare questo modo per pubblicità, allo stesso tempo per cercare di accaparrare i voti nelle elezioni che ci saranno fra qualche periodo. E quindi a secondo i compagni la loro posizione è che le piazze non si devono fermare, ma come fai a non fermare, cioè come fai a continuare a lottare? Quindi le immagini che noi vediamo tante volte in questo momento qui, la prima linea sono i compagni che sono nei quartieri, sono quelli che si beccano le pallottole, sono quelli che tutti i giorni, al di là di andare a lavorare, poi vanno, si organizzano, cercano di parlare con il quartiere, cercano di organizzare delle cene popolari, un po' per creare controinformazione e allo stesso tempo per creare formazione. Cioè il Cile sta facendo un laboratorio nei quartieri, stanno facendo dei laboratori per formare anche le persone a determinate cose. Allo stesso tempo loro criticano il fatto che creare un'assemblea costituente in questo momento non ci sono i rapporti di forza per poterlo fare. Cioè 1500 persone al di là che siano organizzate, è difficile creare un rapporto di forza contro lo Stato. La classe borghese non te lo farebbe fare. Cioè la classe dominante non te lo farà fare. In più c'è da parte la legge, perché la Costituzione allo stesso tempo ti dice: noi non possiamo andare alle votazioni perché sono stato eletto democraticamente, lo dice la nostra Costituzione, quindi voi dovete aspettare la fine del mio mandato e così potete andare a votare. Quindi sappiamo benissimo che questo tipo di rapporto è molto difficile che accada, però tutti i giorni ci sono delle manifestazioni, tutti i giorni ci sono dei cortei, tutte le persone si stanno organizzando in un certo modo e quindi quello che secondo me o secondo i compagni non ci sono troppo prospettive future per questa cosa qua, al di là di quello che possono fare nei quartieri, ma la resistenza che si può fare è per far pressione a che il governo decada, per così chiamare una determinata assemblea. L'assemblea costituente poi è molto allargata, vuol dire che ci sono associazioni, partiti, ci sono diverse entità all'interno di questa cosa e quindi non è semplicemente la gente che si prende le pallottole per strada, ma sono diversi enti e ben venga allo stesso tempo, però non hanno una concezione rivoluzionaria, cioè non vogliono cambiare il sistema neoliberale in un certo senso, vogliono utilizzare questo metodo secondo me un po' per sedare la situazione e quindi la questione assemblea costituente secondo me è un po' da valutare, è un po' da cercare di capirla molto meglio come si può fare. E quindi allo stesso tempo quello che secondo me si può fare qui, che allo stesso tempo per me non è scollegato tutta la questione Cile, situazione in Sud America, è quello che possono fare le scelte dei paesi imperialisti in Europa o comunque gli Stati Uniti. Quindi diciamo che l'invitazione che del perché noi facciamo questa iniziativa, del perché noi cerchiamo di informare su quello che succede, è uno perché qua in Italia almeno non si sta parlando di niente di questa situazione. Allo stesso tempo il Parlamento hanno provato a fare una dichiarazione piuttosto di prendere le posizioni e il Parlamento non ha detto nulla qui in Italia. Sappiamo che ci sono degli interessi molto grossi, le multinazionali sicuramente fanno molta pressione, parliamo di Enel come ha detto la compagna prima, quindi cioè, parliamo dell'80% della luce che viene pagata in Cile la paghiamo a Enel che è italiana, quindi ci sono delle fette che sono importanti da dover mantenere. Stiamo parlando di un paese come il Cile che il litio viene portato in tutto il mondo, anche il Bolivia ad esempio, il Bolivia il 40% del litio mondiale è in Bolivia, il Cile ne ha un resto e quindi ti fa capire come l'industria, come il capitalismo ha bisogno di queste risorse, quindi non le lascerà così in mano alla popolazione. Allo stesso tempo i sindacati cercano di organizzarsi, sì, con un altro tipo di visione, cercano anche di proporre un sindacato che possa amministrare anche dei soldi dei cittadini, che anche questa cosa qua non la faranno fare, sicuramente. Quindi quello che possiamo fare qua, quello che il messaggio che possiamo dare è che comunque tutte queste lotte non sono scollegate e che stiamo lottando per la repressione, stiamo lottando per chi in questo momento nel mondo vive una situazione di precarietà, vive nelle condizioni di essere sfruttato, come qua in Italia, come in Cile, come in Bolivia, come in Ecuador, come in Nicaragua, come in Kurdistan, come in tutte le parti del mondo. E fanno parte, questo gioco fa parte sempre della stessa medaglia. Cioè l'imperialismo non combatte solo con le armi, cioè non è che l'imperialismo è solo portare i militari in un territorio, destabilizzare e prendere le risorse, ma è anche con le multinazionali, ma è anche con i messaggi che noi mandiamo nelle università, con l'insegnamento che noi portiamo nelle scuole, con quello che ci fa vedere nei quartieri popolari, quando diciamo, ah sì, la stratificazione. Certo, i quartieri popolari saranno sempre più bombardati, saranno sempre più isolati verso l'esterno. In Cile è così. Cioè, in Cile tu vedi una parte della popolazione che è ricca, che è come essere in Svizzera, e un'altra parte del Cile è come essere in Angola. Le vite parallele delle persone sono sempre lì, però la situazione è questa e quindi non è scollegato. Quindi certo noi non possiamo dire prendiamo un aereo, andiamo in Cile, lottiamo con i cileni e così via. No, però il messaggio che possiamo mandare qua è organizzarci, portare avanti magari un'analisi di classe, perché lì è una lotta di classe in questo momento, del più ricco che sta lottando contro un popolo incazzato nero. Quindi quello che in realtà si è cercato di fare è informare, creare coscienza, ma allo stesso tempo creare qualcosa di concreto. Vogliamo chiamare magari un presidio, cercare di focalizzarci su un punto strategico, un qualcosa che rappresenti più o meno l'imperialismo, il capitalismo, il baluardo di questa cosa qua. Ci sarà una proposta di una data, ma allo stesso tempo non vuole essere soltanto questa cosa qua. Cioè questo comunque deve essere un po' un percorso che va al di là di cercare di semplicemente fare un presidio. Quindi creare un percorso che possa rispondere, che possa attaccare l'imperialismo, che possa attaccare il capitalismo, perché così lo possiamo combattere sia in casa, ma allo stesso tempo tu stai dando un messaggio ben chiaro a quello che succede in un altro posto. Cioè le azioni che noi abbiamo, che possiamo fare qua, si possono ripercuotere comunque in un altro posto, hanno un effetto diverso. La gente capisce quello che tu puoi mettere in campo, i rapporti di forza. Cioè quando noi parliamo anche della repressione sui carceri, anche qua lottiamo per i carcerati, per i militanti che sono in carcere o per tutto quel sistema di repressione che c'è. Quando noi diciamo nel quartiere di Santiago stanno depredando le risorse, stanno sfruttando le persone, anche qua succede quella stessa cosa. Cioè siamo nella stessa barca tutti quanti. Quindi per questo bisogna creare, secondo me, un percorso che si parli di guerra, che sia antimilitarista. Infatti, ci diceva anche una compagna prima, che ci sarà anche un corteo il 7 dicembre a Genova, se non sbaglio, che è antimilitarista. Abbiamo un sacco di collettivi che si occupano di tante altre cose qui. No, della Palestina, il Kurdistan, i compagni che hanno fatto l'iniziativa sull'Ecuador, e così via dicendo. E guarda caso tutti lottano contro un nemico comune. Qua siamo al cuore, nel cuore del capitalismo, siamo nel cuore di quello che stabilisce le regole del gioco. E quindi è creare questo percorso, è creare questo modo magari di vedere un po' la situazione, come i compagni stanno lottando nei quartieri, come si stanno organizzando, e da prendere anche spunti, da prendere anche coscienza di che si può lottare anche in un altro modo, di che si può dare una risposta più concreta, sia nel nostro quartiere, sia nelle strade che percorriamo, ma sia anche nelle università, nelle scuole. Stiamo parlando che in Cile è scoppiata questa cosa qua perché è partita dagli studenti. È partita dagli studenti perché gli studenti non se ne sono mai fermati in questi 47 anni dalla dittatura militare. Non si sono mai fermati di manifestarsi, si sono sempre organizzati e la repressione con gli studenti era sempre pesante. E l'opinione pubblica sempre ha detto no, le manifestazioni sono brutte, no, le manifestazioni non vanno bene così, no, spaccare quella roba lì non va bene. Certo, adesso la situazione è diversa, adesso ci sono morti. La compagna diceva 50 morti, ma io ho letto delle cose che ci sono anche 200 morti, perché i dati ufficiali non te li diranno mai. Ci sono feriti, come ha detto la compagna, ci sono un sacco di abusi da parte della polizia. Quindi questa cosa qua non può essere fermata così, non può essere fermata con un'assemblea costituente, non può essere fermata scrivendo una Costituzione, perché allo stesso tempo che scrive una Costituzione vuol dire anni. In Italia quando si è scritta la Costituzione ci hanno messo 3 anni per scrivere una Costituzione. In quel momento cosa fai? Non c'era internet, certo. Cosa fai in quel momento? Devi seguire un percorso, devi cercare di lottare per una cosa. Cioè, gli studenti importanti, quando sentiamo, che ne so, qui in Italia, che le scuole si sono organizzate per un X motivo, per questo, per quest'altro, è lì dove bisogna cercare anche di formare le persone, lottare con le persone, stare con gli studenti. Gli studenti sono una, sono proprio una forza immensa, cioè in questo momento in Cile tuttora vengono arrestati gli studenti, tuttora le lezioni vanno fatte, ma allo stesso tempo tuttora la polizia entra. Ci sono delle leggi allucinanti come Aula Sicura, che dopo tutti questi anni che gli studenti si sono mobilizzati hanno creato delle leggi contro gli studenti che si organizzano, quindi la polizia è legittimata a entrare nelle scuole. Entra, lancia il gas lacrimogeno, arresta gli studenti e così via. Nei quartieri popolari, c'erano dei quartieri popolari che la polizia non poteva entrare perché c'era una forza che resisteva a questa cosa. Dopo questi anni qua sono finiti questi quartieri popolari, non tutti, ma sono finiti. La polizia adesso ha tutta la legittimità per poter fermarti. Tutto quello che vuole fare la polizia lo può fare. Quindi viviamo una repressione enorme, ok? Sappiamo come funziona il fascismo quando c'è la democrazia, quando le democrazie borghesi si trovano in difficoltà, è lì quando il fascismo entra. È lì abbiamo le certezze, lì abbiamo il potere da poter sfruttare la popolazione, di massacrare la popolazione. Quindi non è una cosa scollegata, ragazzi, cioè lo viviamo qua, lo viviamo là. Quindi io invito a che dopo questa assemblea non finisca qua, che non sia solo questa chiamata al presidio, ma che si cerchi di fare un percorso con chi ha più voglia di mettersi in gioco, con chi ha voglia di aiutarci magari a formare questa cosa. E niente, per concludere nel mio intervento, abbiamo questo collegamento anche con questo compagno che in questo momento si trova in questo corteo che diceva la compagna per la commemorazione del compagno Mapuche morto e quindi assassinato. E giustamente lui ha vissuto in Italia, quindi in questo momento si trova nei quartieri popolari e partecipa a questo corteo, quindi magari ci farà vedere se riuscirà una parte del corteo, come funziona, come si stanno organizzando. Magari ci saranno anche delle cose un po' più conflittuali, non lo si sa. E niente, proveremo a fare questo collegamento e magari vi darà anche un'idea di quello che succede in questo momento nelle piazze. Grazie comunque per essere qua. È la Sofì. Aspetta, aspetta. Sofì? Ciao, aspetta compa che non c'è l'audio, aspetta, non abbiamo audio, aspetta un attimo. Ok. Adesso sì, Sofì, ciao compa. Ciao, ragazzi, mi sentite? Sì, ti sentiamo Sofì. Ok. Cerca un po', bueno, tu parli italiano, quindi non c'è problema. Ti abbracciamo forte, grazie del collegamento. Grazie, io ti sento male, sento un po' male, però se volete, se voi mi sentite io inizio a parlare. Oppure proviamo con Skype. No, ma sento super male. Ma si sente bene. No, Sofì, vai avanti perché per adesso si sente bene, se abbiamo un problema te lo dico e cambiamo, okay. perché adesso siamo per Skype, no? No, siamo con Messenger. No, adesso siamo con Messenger. Sì. Se no cambiamo, eh? Sì. Grazie, compa. Puoi iniziare se vuoi. Allora, ragazzi, credo che già vi ha spiegato un po' la situazione del paese, questo paese. Sofì, aspetta, si sente malissimo. O ti avvicini il robot lì che hai l'auricolare? No, sento... E l'auricolare? Aspetta. Perché si interrompe? Saranno gli sbirri che... Le sbirri. Prova a avvicinarti al robot lì, prima, come Marcello. L'auricolare che hai lì per parlare. No, quello che hai lì. Oppure parla che io sono vicina al wifi, sono a casa di un amico e sono proprio attaccata al wifi. Ok, cioè, allora prima lo ho detto a Marcello di non muoversi di qua e di là, di stare in un punto fisso, perché anche lui camminava di qua e di là anche per evitare, se no va bene, lo facciamo per Skype. Allora proviamo, se no lo facciamo per Skype. Ok, come uno settenante quando parla lei. Dai, vai, prova per favore, Sofì. Allora, prima di tutto, scusarmi con il mio italiano un po' spagnoleggiante, perché stiamo parlando praticamente sempre castellano. Dai. Proviamo per Skype. Prova per Skype. Proviamo con Skype. Che... No, funziona? No, non mi sta funzionando adesso Skype. A ver, cerca di parlare, se no WhatsApp senza immagine, purtroppo. No. Provo? Sì. Aspetta un attimo, stiamo provando con Skype. Lo logra? No. Sì. Che rende dice che non si sente nulla. Ragazzi, se mi sentite, intanto dirvi che qui oggi le strade sono piene di gente. Sì. Oggi veramente può succedere di tutto. Bene, Catrillanca vive. Ricordiamo che oggi si compie un anno dalla di Camilo Catrillanca, comunero mapuche, della comunità di Emucucuy, comunità in conflitto da anni con lo Stato cileno. Già? Quindi questo si va sommando al clima di rivolta che è iniziato un mese fa. Quindi io mi trovo qui adesso al lato della piazza principale dove sta succedendo da un mese a questa parte tutto, sembra che sta arrivando veramente tanta gente e questo ci tiene il cuore. Cosa succede un mese fa? Un mese fa succede che il governo annuncia che subirà di 30 pesos, che sono circa 50 centesimi, il biglietto della metro. Ok? Mi sentite, certo? Ok. A questa proposta gli studenti di un liceo storico combattivo per storia, che è il Liceo Nazionale, quindi stiamo parlando di ragazzini di 15-16 anni, decidono di iniziare una campagna di evasione al metro, ok? E quello che fanno è entrare con la forza, con le buone o con le cattive, come si dice, al metro, e iniziano a tirare giù tutti i tornichetti della gente, già? Quindi iniziano con questa campagna, campagna che termina, in un senso più generale, una rivolta, la rivolta di cui si sta parlando in tutto il mondo, ok? Il tema, la cosa che a me, come italiana, come straniera, diciamo, mi ha lasciato veramente senza parole, è stato l'assommarsi di tutti i tipi di gente. In strada non ci sono solo compagni, non c'è solo gente con una coscienza politica, c'è veramente di tutto, dalla madre di famiglia al lavoratore, a quelli chiamano i flight, sono come i tamarri, no? dei quartieri, c'è di tutto. Ragazzi, non stiamo parlando di una rivolta politica fatta da gente con una coscienza politica, ossia non solo. Ci sono anche chiaramente compagni più organizzati, però la cosa che a me veramente mi ha lasciato impressionata è la grande massività, la massa che decide che no, già in Cile è impossibile vivere per molte cose, perché stiamo parlando di un paese dove è tutto privato, dove se ti rompi una gamba devi aspettare 2 settimane perché ti mettano un gesso, devi pagare perché ti mettano un gesso. Stiamo parlando di un paese dove la gente muore di cancro senza neanche mai mettere piede in un ospedale per le lunghe attese. Stiamo parlando di un paese dove studiare all'università equivale a farsi un mutuo, letteralmente, con le banche, e indebitarsi di, non so, 20.000-25.000 euro per studiare all'università. Stiamo parlando di un paese assolutamente e completamente venduto alle grandi imprese, soprattutto straniere, ok? Stiamo parlando di un paese dove esistono pochi ricchi, e ricchi veramente ricchi, e tanti poveri, e veramente poveri, gente che più di mangiare pane e pasta tutti i giorni non fa, che non si può permettere di comprare, che so io, no? Quindi la gente arriva da anni di sfruttamento, di ingiustizia, di fame, e decide che no, basta, ci siamo rotti i coglioni, e ci organizziamo e scendiamo in piazza, ok? Tutto questo inizia un mese fa e non è ancora terminato, perché tutti i giorni stiamo parlando un minimo di 250.000 persone tutti i giorni in piazza, ok? La rivolta si sviluppa su 2 piani, un piano più centrale, quindi qui in centro, potrei paragonarvi, non so, Piazza Duomo, così per dire, un centro Milano, e si sviluppa nei quartieri quotidianamente. Il governo cosa fa? Invece di ascoltare la gente, non so, per esempio, proporre una legge anticorruzione, non so, faccio un esempio, decide appesantire le leggi contro incappucciati, contro la gente che scende in piazza, ok? E quindi risponde buttando fuoco, o sea, buttando benzina sul fuoco. L'altro giorno Piñera, il presidente, ha parlato, ha detto no, incidentiamo la legge per la sicurezza dello Stato, addirittura la gente non si può più tappare la faccia, si possono arrestare solo per quello. E ragazzi, quando ti arrestano è pesante, perché ti portano in caserma e ti ricchiano però come animali. Stiamo parlando di una rivolta dove è sparita gente, ci sono un sacco di desaparecidos, gente di cui non si sa niente. Stiamo parlando di una rivolta in cui più di 200 giovani e persone comuni hanno perso la visione parziale o totale degli occhi a causa di questi, sono come dei piombini grossi di piombo che sparano, e sparano ad altezza uomo. Addirittura c'è un video di un carabiniere che dice che la collega spara negli occhi. Da lì nasce un po' la metafora, no? Il governo vuole tappare gli occhi ai cileni, ma i cileni continueranno a vedere, no? A guardare. La repressione è molto forte. Io non avevo mai visto qualcosa così, mai visto una repressione tanto forte. Stiamo parlando di carabinieri prendere dai capelli le ragazzine e cominciare a picchiarle. Carabinieri che ti ridono in faccia quando tu gli dici assassino di merda, ti ridono in faccia e sono fieri di quello che fanno. Sono carabinieri che dietro l'angolo sniffano cocaina e dopo anche la marcia, no? Svuotano tutta la rabbia che hanno, tutta l'ignoranza che alla fine sono. Dunque, le cose che voglio denunciare di più sono la violenza dello Stato, la risposta violentissima dello Stato. Quanti morti sono? 25 morti. Nella prima settimana sono morte veramente tante persone quando c'erano i militari in strada. Addirittura poi hanno cercato di coprire la cosa, come avevano già fatto in dittatura, no? Hanno cercato di coprire la cosa e dopo i saccheggi nei supermercati cosa hanno fatto? Hanno tirato sui cadaveri di gente che era morta per colpo da arma, per fucili, cose così, e li hanno chiusi in supermercato e hanno bruciato il supermercato facendo credere che era a causa di un saccheggio. Per poi si è scoperto che erano già morte prima, quindi hanno cercato di nascondere, perché qua in Cile ancora sempre i montanti della polizia sono una cosa molto forte. Costruiscono le bugie, no? Per poi giustificare la violenza. Vabbè, è il sistema che lo prevede, no? Però qua in Cile io devo dire che questa cosa l'ho vista tante volte, soprattutto verso i compagni anarchici, soprattutto gli anarchici. Però adesso la violenza è veramente verso di tutti, bambini. L'altro giorno hanno cominciato a sparare gas lacrimogena e a sparare colpi d'arma da fuoco. Stiamo parlando a 10 metri dalla gente. La gente ha cominciato una folla, stiamo parlando di un milione di persone. Io in un momento pensavo di rimanere quasi schiacciato dalla folla. Hanno cominciato a sparare bambini, gente in carrozzina, di tutto, non guardano in faccia nessuno. Ora, un'altra cosa che da italiana, e questo potrebbe risultare anche un invito, no? Perché io sempre dico, cazzo, ma quando succederà qualcosa così in Italia? un'altra cosa che a me veramente non posso credersi è il coraggio della gente. Ragazzi di 15-16 anni che ha fatto così col carabiniere senza paura, senza paura. La gente veramente ha lasciato da parte la paura ed è decisa a seguire. Ora, il processo è abbastanza lungo e all'inizio non ci sono ancora proposte. La gente, alcune persone si organizzano, stanno creando un po' delle assemblee, no, di quartiere, però ancora non c'è chiaramente il processo della rivolta, no? Siamo ancora in un processo di rivolta. Non si vede ancora nascere qualcosa di concreto. Tra le domande, ovviamente, il cambio della Costituzione, che rinunci il Presidente, che è un fascista di merda, è un fascista vero fino al buco del culo, ragazzi. Il cambio della Costituzione, che è una Costituzione fascista. No, muovere l'auricolare di una costituzione. Sofì, non muovere l'auricolare. Perché la prima. Perdon. Va bene, così ferma per favore. Ok. Quindi, tra le domande del popolo, posso dirvene alcune, per esempio, un salario più degni. Stiamo parlando di un paese dove il soldo minimo è 300 euro, 350 euro, ve lo dico in euro perché vi risuoni più chiaro. E se a me mi costa più di un euro un biglietto di sola andata della metro, immaginatevi con 300 euro al mese, come faccio una famiglia di 4 persone, per esempio, solo pagare il biglietto della metro andata e ritorno, 4 persone, già stiamo parlando di 300 euro praticamente, no? Ossia, cose allucinanti. E stiamo parlando di un paese qua in America Latina dove il caro vita è molto alto, gli affitti sono alti, il prezzo del pane, io ho fatto una comparazione in Italia, più caro il pane qui che lì in Italia. Immaginatevi la gente come vive. E quindi questo si è basta e la gente è incazzata. Quindi gli stipendi, stanno chiedendo, stipendi più degni, cambio costituzione, educazione, pubblica di qualità, dicono qui, perché veramente qua le università, il 90% sono private. La salute, il campo di qualità, la salute, gli ospedali, i pochi ospedali pubblici che ci sono qua sono delle macellerie, ma non perché i dottori non sono bravi, perché chiaramente il sistema è otturato, non è congestionato, chiaramente. Quindi questo, si segue da un mese e oggi, come vi dicevo all'inizio, alla rivolta del popolo, si somma il fatto che si compie un anno dall'assassinato di Camillo Catrillanca, Mapuche. Ah, un'altra cosa che volevo dirvi è che nelle piazze il popolo cileno, io ho visto tantissime bandiere Mapuche, quindi si è creata, diciamo, un'unità molto forte tra la gente, molto forte. Finalmente, diciamo che la gente sta iniziando a capire che il popolo è uno, no? Che qua si sta parlando di poveri. Non è una questione né di provenienza né di niente, di situazione di vita. Sulle cose che vi posso dire, gli effetti di questa rivolta che ho notato io, è proprio questo. Secondo me la cosa più importante è che i cileni dopo 30 anni hanno ricominciato a guardare al lato, al proprio lato, no? A preoccuparsi del proprio vicino. La gente parla. Prima tutti camminavano guardando per terra, adesso si preoccupano. L'altro giorno, non so, ma sembra una cattata. Ho cercato di rubarmi il Sofì. Una signora si è messa la ragazza, questa città di Crepo, forse noi dovremmo un po' imparare da questo, no? Soprattutto pensando al clima che si sta passando un po' in Italia, no? Aspetta un po' che non si è capito niente l'ultima parte, perché sta andando via, mi pare, la comunicazione. Ah, perdono. Ok. Io te rompo le scatole, ma cerca di non muoverti tanto, perché non lo so se è il tuo auricolare o proprio la comunicazione. La cosa che un po' anche per dare tempo, perché abbiamo parlato anche con Marcello, quello che l'informazione che non è proprio arrivata qua e che a noi ci interessa tanto come compagni e compagne anticarcerari è la situazione dei detenuti. Sì. Che Marcello ho sentito l'altro giorno in una intervista a Radio Onda Rosa di Roma, che parlava dei carceri in Cile e soprattutto in Santiago. Ci piacerebbe un po' capire cosa sta succedendo con le persone che sono state detenute. Con le carceri. E la situazione del carcere, perché qua veramente non si sa niente su questo. Ok. Allora, le carceri sono piene? Ci sono, quanti sono lo detenuti? Più di 10.000 detenuti in questo momento. Ragazzi, giovani, adulti, di tutto e di più. Soprattutto parlando nella prima settimana per i saccheggi, a noi stavano raccontando un amico che fa arrivare tantissimo. Mi stava raccontando che, non so, un tacchista, che l'hanno fermato, gli hanno fatto un controllo nell'auto, gli hanno trovato, non so, 3 bottiglie di shampoo, l'hanno buttato in saccheggio in un supermercato, ok? Quindi si arresta gente, non solo la gente che c'è per strada, non solo il ragazzo che tira la Molotov, non solo il ragazzo che si incappuccia, ma si sta arrestando gente anche che non niente che vedere con la rivolta. C'è un 10.000 persone nelle carceri. Sempre il nostro amico ci ha raccontato che hanno svuotato dei moduli nelle carceri e li hanno adibite agli arresti della rivolta. Giusto ieri stavo parlando con una signora che è medico e lavora per l'Associazione dei Diritti Umani. E lei mi dice che la violenza fuori, prima di arrivare in carcere e poi in carcere da parte dei gendarmi, è incredibile. Incredibile, perché quando a te ti prendono in strada, ok, prima di tutto c'è il tempo, no, per arrivare alla stazione di polizia, e lì già ti massacrano. Dopodiché si passa al controllo, no, di identità, e lì ti massacrano un'altra volta. Dopodiché ti passano alla carcere e vabbè, sappiamo come agiscono i gendarmi nelle carceri, no? Con violenza. E quindi mi stava spiegando questa signora che sta vedendo gente veramente ossa rotte, di tutto e di più, incomunicati, le famiglie non sanno niente di questa gente, madri che cercano i loro figli e la polizia gli dice no, non sappiamo dove sono. Quindi immaginatevi poi anche per quelli che stanno fuori, le famiglie che magari stanno cercando, una madre che cerca suo figlio di 13 anni e non sa dov'è, non sa come sta. Io ho saputo la storia di una ragazza che è sparita 2 giorni, dopodiché la madre l'ha trovata in una stazione di polizia in mutande reggiseno con una gamba rotta. Immaginatevi, questa è la situazione. Oltre, vabbè, alla violenza che si vede poi nelle strade, anche la violenza che si vede non solo qua in centro, anche nei quartieri popolari, no? Soprattutto di notte, quando c'erano i militari, quando c'era il coprifuoco, di notte che vedeva la vita durante, no? Probabilmente i e lì questi no. Nel quartiere dove vivo io, per esempio, quando c'era il coprifuoco, una notte sono arrivata con la nostra polizia investigativa, sono arrivate in camionette nere, borghese, che hanno cominciato a sparare come se non ci fosse un domani. In realtà la situazione delle carceri, tornando al discorso, è abbastanza complicata perché neanche qui si sanno tante cose. Se non fosse per il circolo di compagni, associazioni di carcerari e la televisione, chiaramente non parla di queste cose. È molto difficile anche qua sapere cosa sta succedendo nelle carceri. Però ci sono tantissimi detenuti e un abuso, ovviamente, da parte dello Stato, da parte della polizia, addirittura poi vabbè, qua sappiamo che c'è la legge antiterrorista, immaginatevi. Stiamo parlando a un professore del liceo, gli devono dare 10 anni per avere un torno della metropolitana, ragazzi. 10 anni di carcere gli vogliono dare, gli stanno chiedendo. Per cosa? E dall'altra parte no, ci sono... Dall'altra parte ci sono gli sbirri che stanno violentando, le ragazze. E l'altro giorno il capo della polizia ha detto che lui non ha intenzione di prendere provvedimenti nei confronti dei poliziotti, di nessun poliziotto. Sofì, mi senti? Sì. No, perché due cose. Sì. Prima hai detto 10 anni, però non abbiamo capito perché cosa. 10 anni per? Per dieci anni per aver metropolitane. Rotto il treno della metropolitana. Ah, per aver rotto il treno metropolitana. Sì. Al professore? O no? Un professore del liceo. Sì, sì, l'ho visto. Che stava appoggiando i suoi alunni, è entrato nella prima settimana e ha rotto per far passare la gente, no? Okay. Ha rotto un pezzo di ferro. Sì, quindi. Adesso ho capito. Mi stanno chiedendo 10 anni. Sì. Il problema è che adesso la comunicazione purtroppo non va molto bene. Volevamo sapere se qualcuno voleva fare una domanda, però la comunicazione non va molto bene, perché a momenti si interrompe e non si capisce nulla. Spero che qualcosa si abbia capito qua. O chiudiamo o facciamo una domanda, perché non lo so, c'è la compagna lì, però la comunicazione sappiamo che no, non è ottima, purtroppo siamo alla fine del mondo, le sbirri stanno monitorando le linee e quindi penso che possiamo chiudere qua, più che altro per il problema che abbiamo, che non si capisce molto bene. Avete domande? Qualcuno? Ok. Aspetta, Sofì. Volevo chiedere se c'è un centro organizzativo della rivolta o qualcosa simile. O se è solo spontaneità totale. Sì, voleva sapere qua un compagno se c'è un centro organizzativo della rivolta o son tutte, diciamo, organizzazioni o auto-organizzazioni spontanee. Beh, diciamo che a livello politico sì, ci sono organizzazioni politiche, no, che da anni lavorano già, diciamo, giornalmente, no, nel paese, da collettivi anarchici, diciamo la sinistra, però no, è un movimento proprio libero, non ha colore, in questo momento non ha colore, non ha bandiera. Gente comunque non gli metterei un'etichetta. Chiaramente ci sono collettivi studenteschi, collettivi di tutti i tipi, però no, non gli metterei un'etichetta a questa rivolta. Ok. Io dopo ti chiederò in forma interna, a me mi interessa sapere se c'è qualche modo di contribuire concretamente con le persone che sono detenuti o detenute in questo momento nel carcere. vedere il modo sicuramente di dare un contributo più concreto, soprattutto economico. Sappiamo che questa è una grande debolezza in Cile, l'economico, e quindi magari dopo internamente ne parliamo, perché penso che, sì, che questa è una delle situazioni più gravi, sì, che si sta vivendo in quanto a repressione. Il lavoro, no? Che tu fai sempre mettendo il cuore, no? E lo sappiamo, lo conosciamo. Però credo sia un po' presto per parlare di aiuti a livello economico, perché ancora è un processo che credo che all'inizio. Quello che si può fare adesso sicuramente è informare, parlare con l'amico, in questo angolo del mondo sta succedendo questo, no? Sì, e, sì. E anche qualcosa che può succedere nella testa di tutti noi, no? Un piccolo ingranaggio che si muova, no? Che faccia pensare che alla fine non è solo qua che si vivono certe cose, se non in tutto il mondo. È veramente, per esempio, questi giovani che hanno lasciato la paura, veramente, secondo me, è il valore più grande che ha questa rivolta, che ci può insegnare questa rivolta. Andare in giro con la testa alta, non avere paura né del poliziotto né del più potente. Beh. La dignità. Si sono? Scioperi? Sì. Certo che partecipano. Sì, sì, sì. Sullo sciopero dei lavoratori. Oggi per esempio è iniziato lo sciopero dei netturbini, quelli che raccolgono la spazzatura. Hanno detto basta. Non lavoreremo da qui finché non ci daranno uno stipendio più dignitoso e non riconosceranno il nostro lavoro come un lavoro a rischio, chiaramente per tema di salute, eccetera. E abbiamo visto anche questo martedì 12 novembre che c'era lo sciopero nazionale, no? Il paese è fermo. Sì. Sì, come dice la Sofia, il paese è fermo. Il martedì 12 abbiamo visto tutto Cile fermo, in tutti i settori, in tutte le organizzazioni. Sì. È stato veramente bellissimo. Sì. E, come ha detto il compa lì, tuo compa ci ha fatto emozionare, no? Come la gente non ha più paura, ha tanta rabbia, tanta dignità. E quindi vedere Cile in quelle condizioni... si commuove, si emoziona, e come dice te, deve essere un esempio per tutti i popoli. Ragazzi, i giovani, la gente sta iniziando a organizzarsi come può, per esempio tirano giù i cartelli di stop e costruiscono degli studi per avanzare verso la polizia. La gente sta iniziando a comprarsi le maschere da snowboard o da muratore o da saldatore per proteggersi gli occhi. La gente veramente di notte lavora per organizzarsi e scendere in strada al giorno, incredibile. C'è una continuità poi incredibile. Avete capito? Perché si sente, sì, che dice che la gente anche si organizza nel modo più originale, che prende questi cartelli dello stop per fare scudo alle pallottole e tutto quanto. E Rainer dice che come a Varese, uguale. Ah, sì, uguale. Una domanda qua, un'altra domanda, compa. Ah, quelle che anche io ieri ho mandato qualche fanculo anche qua in Italia, perché veramente no. Sì, qua c'è il compagno che l'ho detto ieri sera o stamattina l'ho detto a Marcello, no? Che stanno girando questi messaggi molto come intimidatori, di dire no, dicendo non uscire dalle case, non andare a manifestare, perché adesso sarà peggio. Oggi, certo. Oggi infatti stavano chiamando a non marciare per Camillo Catrillanca. Ieri a me mi sono arrivati un sacco di questi messaggi che mi sono proprio incasata. E quindi il compagno chiede quasi se sa qualcosa, provenienza o come mai stanno girando questi messaggi. come mai stanno arrivando questi messaggi? Cioè, contro i manifestanti? Che non ho sì, per, bene, sì perché, perché per dire, stanno arrivando questi messaggi dicendo alle persone non uscite di casa, non dobbiamo buttare tutti questi giorni di lotta perché ci stiamo un po' consegnando, dando il modo di che la violenza ancora sia più, più potente, più grande, quindi dice... sì, vabbè, però da sempre poi c'è la gente, per esempio era uscito un flyer per la protesta di oggi per il Catrillanca, di marciare in silenzio, senza violenza, però il flyer era come un fake, alla fine non è mai successo, nessuno ha mai chiesto di marciare pacificamente o in silenzio per Mattia Catrillanca. Cioè, stiamo sì, parlando che... di una pratica di lotta che da anni non include il pacifismo, diciamo. No, no, no, anche dall'altra questo parte, sì, è vero. Sì, sì. Dall'altra parte poi si generano questi movimenti, per esempio si è generato questo movimento di fascisti che si fanno chiamare il... Gilet gialli. La giacchetta gialla. Sì. Che vanno per esempio le scritte sui muri, vogliono ricostruire il paese, no? Vogliono migliorare il paese con la pace. Sono dei fascisti del cazzo e comunque mi fa paura scendere in strada perché sanno che sono pochi rispetto alla maggioranza che oggi è in piazza. Meno male. E comunque... Anche pensandolo, io ho visto, ho partecipato a marce pacifiche, ok? Quale chiamano le marce familiari, e la polizia comunque risponde con repressione, quindi la dignità poi ti porta no? A rispondere, a difenderti. Un'altra domanda? O chiudiamo? Sì, comunque quel messaggio lì che stanno girando, anche noi ci chiediamo, no, non c'è una firma, non c'è una rivendicazione, quindi no. Non dobbiamo proprio credere. O sea, anche a me mi fa arrabbiare la gente che comincia poi a girare questi messaggi. O sea, un po' un minuto a pensare da dove possono venire, noi non lo sappiamo, o che sono fake o che vengono dei gruppi fascisti che si inventano questo per... Credo per evitare credo che parlando di Camilo Catrillanca, la gente quello che vuole, a partire non solo il popolo mapuche, ma la gente in generale che ha un po' di coscienza politica e che ha un po' di cuore, si vogliono vendetta. Perché veramente, vabbè, tu lo sai meglio di me, stiamo parlando di quello che giornalmente riceve violenza da parte dello Stato, quindi questa quasi è uno slogan, no? La volete che vi tiriamo fuori? Sì, se voi ci tirate quindi è una cosa naturale, è una reazione naturale dell'essere umano più che altro. Un'altra domanda, la ultima. Sì. Infatti. Che c'è qua la signora è una compagna che lei ha vissuto la dittatura di Pinochet, lei è un'esiliata se non sbaglio, e lei racconta che già in quel tempo lì però che già anche prima si organizzavano i fascisti per intimidare la gente come oggi con questi messaggi, certo. E quindi dice che lei non ha dubbi che sono un'organizzazione della destra per intimidire ai manifestanti che si organizzano sì. In questo modo, no? Certo. Certo. e mentono, perché addirittura vogliono far credere, con poi l'appoggio della televisione, diciamo la televisione borghese, no? I canali più importanti, che vogliono far credere che, ne so, l'incappucciato che oggi è in piazza va a distruggere il piccolo negozio del povero artigiano, quando non è così, no? Quello, se tu cammini per le strade di Santiago, l'unica cosa che sono, che hanno distrutto, sono le banche, le grandi, sì, grandi centri commerciali, cioè i simboli del capitalismo. Quindi c'è una coscienza anche in quello. Vabbè, sappiamo che anche diciamo il 1° maggio a Milano sempre hanno fatto lo stesso, no? L'altro giorno hanno bruciato una chiesa qua, e adesso c'è un video che è stato un carabiniere a bruciare, perché poi c'è anche un problema di infiltrati, no? Quindi cercano di criminalizzare la lotta per far, sì, poi far litigare la gente tra di loro, no? Per ridurre la violenza a qualcosa di stupido e di pochi, no? Però non è così, perché la gente ha veramente aperto gli occhi, quindi... Sì, anche questa non funziona. Anche questa cosa mi fa venire in mente che io ho visto delle pubblicazioni dei compagni e dei compagni dicendo che le piccole attività, le attività locali, non si toccano, non si bruciano o non si saccheggiano o non si distruggono, perché si rispetta il lavoro, certo, della gente, del popolo. Quello che si sta colpendo giustamente sono i grandi marchi delle multinazionali, delle banche, tutti quelli che in questi anni sono grandi responsabili della vita umiliante, povera che hanno fatto i cileni e le cilene attraverso questo modello neoliberale che ancora rimane. Però, come dice, certo, lei, i piccoli negozi non sono state mai toccate, però sempre c'è il modo di strumentalizzare che sono i cappuccia, che sono i delinquenti, i manifestanti, che fanno anche questi, ma ci sono i video, tanti video, come dice lei, dove si vede chiaramente i carabinieri che stanno saccheggiando, bruciando o lanciando lacrimogene ai supermercati, ai grandi negozi. Basta. Certo. Dai, perfetto, io penso che qua si può chiudere, no? Sofì. Sì, anche perché noi adesso scendiamo e andiamo a manifestare. E noi volevamo vedere. Anche se il presidente Piñera ci ha minacciato a tutti gli stranieri. Io volevo. Noi volevamo vedere questa festa lì a Santiago. Pensavamo che il collegamento era delle strade. Quindi lo sai che per me solidale del popolo Mapuche per me è una giornata importante. Quindi se vuoi ti posso mandare dei video, se faccio in tempo, se non so se adesso rimarrete, ti posso mandare dei video in diretta. Sì, dopo mi mandi i video che io lo posso anche inoltrare e diffondere qua. Io vi ringrazio tantissimo, io ti abbraccio tanto, okay, a te, a Marcello, a tutti i compi. Grazie a voi. Ai compas che sono lì in strada, nelle barricate. Che stanno affrontando veramente, io parlo, non è più repressione, non è più violenza, questo è un massacro fascista, perché noi cileni e cilene siamo stati abituati tanti anni alla repressione, alla violenza, per noi è normalità, questo è un'altra cosa, quindi io veramente ho il cuore grandissimo di orgoglio, di tanta ribellia, di tanta dignità, e quindi vi abbracciamo forte, Mari Chigüeo, la lotta, grazie, continua. E che sappia il mondo che in Cile si uccide, si sta uccidendo, che lo sappia il mondo. È questo, è vero. E che i cileni non si arrendono, che sono delle teste dure, più della repressione. Grazie. A te, Sofia, abbracci, compa. Forza, newen, newen. Marispiweu. Ciao, Cino, grazie. Ciao. Ciao, compa, attento. Attento a un'altra pallottola. Ciao. Vale, ciao, cuidense. Tu cuidate. No, il compagno che era lì, alla fine ha parlato lei perché facevamo più veloce con l'italiano, se no con lui era tradurre e se perdeva già la comunicazione, non era ottima. Si perdeva anche tempo e si perdeva un po' il filo. Il compagno che è lì, che è quello anche delle foto, in tutti questi giorni, quasi un mese, è stato colpito di diverse pallottole di gomma, di piombo, al collo, alla schiena, alle braccia, e purtroppo anche questo sta diventando una normalità. Sì, lui, che era quello che, che era qua con la ragazza. E anche le compagne che ho parlato questi giorni, che sono le compagne che sono qua con la bandiera dei DAX, sono state anche colpite con le pallottole alle gambe, perché mi ha detto che un'altra strategia che stanno avendo adesso i carabinieri, che così ti sparano alle gambe, tu non puoi camminare più, loro vengono, ti fermano, ti prendono a botte, ti massacrano, ti lasciano lì o ti portano in questura, in commissariato, e quindi per quello che è importante anche sapere, come ha detto la Sofì, che in Cile si stanno uccidendo, no? È passato già il livello della repressione, della violenza normale che noi siamo abituati a vivere purtroppo. Dopo questo io volevo un po' fare un punto sulla solidarietà, diciamo, concreta e immediata che possiamo fare, e io qua faccio un appello grande a voi, nel senso che noi, essendo anche Rete Mapuche, siamo Rete Mapuche con il mio compagno e con altri compagni che non sono qua, abbiamo già dei contatti da tanto tempo di realtà, di collettivi che in questo momento stanno assumendo la lotta attraverso la resistenza, soprattutto nei quartieri popolari di Santiago e di altre città del Cile. Ci hanno scritto e loro si stanno auto-organizzando nei quartieri, per dire, preparano la olla comune. La olla comune è il pentolo, quello grande, grosso, che si cucina per tutto il quartiere. E c'è anche l'organizzazione, hanno dovuto improvvisare ambulatori popolari per i feriti, perché dobbiamo anche sapere che la repressione più cruda e più frequente arriva nei quartieri, non arriva nelle proteste. La protesta già arriva tanta, ma nei quartieri dove trovano, diciamo, applicano la repressione più grande contro la gente di questi posti. Quindi hanno dovuto improvvisare questi ambulatori popolari, perché si raccontavano che tanti di loro ovviamente non vogliono andare all'ospedale e hanno paura di essere detenuti. E quindi, diciamo, quello che riescono a curare tra di loro in questi posti improvvisati fanno loro. I casi più urgenti ovviamente vanno all'ospedale. E si raccontavano che si auto-organizzano tra diversi quartieri della stessa comuna, non hanno nessun vincolo con l'istituzione né con la comuna stessa. E bisogno anche grande sono i bambini, le bambine, sono tanti nei quartieri, soprattutto per quelli più piccoli, quanto al cibo, al latte, pannolini. E quindi io oggi faccio, di solito noi Rete Mapuche organizziamo per raccogliere i soldi, sempre organizziamo delle cene o dei pranzi, diverse cose. Oggi no, in questi giorni non abbiamo tempo per organizzare tutte queste cose, perché stiamo facendo diverse iniziative. E vogliamo raccogliere un po' di soldi per uno di questi quartieri dove ci sono le compagne che si stanno organizzando, in un quartiere di Cerro Navia, Santiago, che è la popolazione jugoslavia, che stanno facendo tutto quello che ho detto prima. E abbiamo anche una compagna di Valdivia, che è una compagna della Rete di Sostegno al Popolo Mapuche in Cile, che purtroppo si è incendiato la sua casa e lei in questo momento si trova a vivere per la strada con la sua figlia. Quindi noi, in qualche modo, vogliamo tutte queste iniziative un po' per volte raccogliere di soldi, 1 euro, 2 euro, 3 euro, quello che potete oggi lasciare. Noi dopo, alla fine del mese, metteremo tutti insieme con le iniziative che avremo in questi giorni e le invieremo a queste realtà che in Cile stanno resistendo, perché tanti di loro, la gran parte di loro, non stanno lavorando o qualcuno sta lavorando a metà giornata per la situazione che c'è, perché Piñera continua a dire che c'è la normalità in Cile. La normalità non c'è in Cile, quindi lui ha detto si può tornare a scuola, si può tornare a lavorare, ma non ci sono le condizioni. E anche i compagni e le compagne, soprattutto una compagna mi diceva io rivendico questa lotta e io non vado a lavorare perché il mio tempo le dedico alle strade, alle barricate, alla resistenza che stiamo dando. Quindi gran parte di loro non sta lavorando in questo momento e cominciano già a avere purtroppo questa necessità economica per anche coprire le spese normali, cioè il bisogno normale che abbiamo tutti i giorni, che è il mangiare, il vestire, soprattutto i bambini, e c'è anche la problematica dei feriti e delle ferite. Quindi io qua metto un bicchiere perché ho dimenticato a casa la scatola, se qualcuno un euro, due euro, tre euro va benissimo, e poi lo manderemo giù ai compagni e alle compagne che stanno lottando in questo momento contro questo fascismo, contro questo capitalismo, contro questo neoliberalismo. Grazie. C'è un compagno che vuole chiedere una cosa. Potrebbe essere un modo. L'organizzazione. No, per questo è meglio mandare i soldi. Per dire, lo stesso compagno che hai parlato adesso con la compagna, loro sono in Villa Francia. Tu conosci Villa Francia in Santiago, non lo so, che è uno dei quartieri più combattuti della dittatura di Pinochet, no? Dei Fratelli Vergara, che lì nasce la giornata del giovane combattente. E anche loro sono nella stessa condizione, tutta la tua organizzazione. E quindi ci hanno detto anche, poi c'è la difficoltà di fare spedizione, anche perché loro sapranno in che cosa meglio è investire questi soldi, quali sono le necessità più grandi o più necessarie. E quindi noi parliamo adesso con compagni qua che si hanno anche mobilitato per fare questa iniziativa oggi, ma noi anche come Rete Mapuche, avendo altre iniziative, vogliamo anche sempre in questa situazione mettere questa proposta. Questa proposta, sì. Ma poi allo stesso tempo nei quartieri popolari sono le mamme, sono le nonne che fanno la sciarpa, gli occhiali, piuttosto che lo scudo, e sono delle cose che recuperi magari per strada e così via, e usano per la lotta. Quindi in realtà quello che dice la compagna qua è più che altro i soldi magari li possono utilizzare per le cure, perché comunque stanno bloccando anche le farmacie sono chiuse, quindi ci sono degli aiuti che sono più concreti da questo punto di vista. E quindi più che mandare un pacco con occhiali o cose, sicuramente è meglio fare una... Esatto, quello può essere un metodo. Sicuramente potremmo fare anche altre iniziative o cose del genere. Cioè, quello che vorremmo non è che finisca qua, come dicevamo prima. Infatti, se qualcuno ha anche delle proposte, delle domande, abbiamo parlato anche prima di chiamare un presidio. Volevamo chiamare questo presidio, in realtà non so se possiamo dirlo qua così. Sì, dillo perché si alla fine. Sì, dillo. Abbiamo deciso di dirlo, allora. Sì. Ok. Ma abbiamo deciso che per giovedì prossimo. Sì. Alle che ora? A che ora? A che ora? A che ora bene? No, molto presto. Un po' presto. Alle 6. Alle 6, alle 6. Alle 6. Mi spiega perché nel mondo tante punti. No. Allora ci sarà il Spagna. Sappiamo, no. Quindi cercherà di venire se ancora è qui nel suo posto, il presidente Piñera, e quindi che questo qua, tutti i suoi ministri, tutte le persone che sono colpevoli di non aver mai ascoltato, di aver visto come si fosse la regina Maria Antonietta, voi trovate il carro in metro, camminate, diciamo i ministri, piazzate 2 ore prima, piattate camminando al lavoro, quando chiedevano. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Per la partecipazione, per la volontà di fare anche queste cose. E anche noi vogliamo portare quindi una proposta concreta, e quindi si parla di questo presidio per giovedì prossimo davanti alla sede dell'Enel. Perché l'Enel? Abbiamo scelto questo punto da colpire per tutto il discorso imperialista e capitalista, per l'appunto abbiamo parlato di quello che Enel fa e dell'interesse che ha Enel in altri contesti, sia dell'America Latina ma anche in altri posti del mondo, e quindi potrebbe essere una cosa molto significativa per dare risonanza anche questa cosa, no? Il ritrovo avevamo pensato per le 6, il ritrovo a Cadorna. Questo magari non sarà un evento che lo pubblicheremo su Facebook o cose del genere, ma lo faremo girare magari nelle mail dei diversi collettivi. Sicuramente il passaparola sarà fondamentale anche per fare questa cosa. Poi io personalmente ho i miei dubbi su certe cose, su che tipo di cose fare. Sicuramente ne parleremo con i compagni, come si può agire in quella situazione. Sicuramente anche la lettera che devi mandare, se la mandi o non la mandi, tutte domande che comunque stiamo cercando un po' di capire. Sicuramente dopo questa assemblea magari potremmo, se qualcuno ha delle idee o dei consigli da poter darci per fare questa cosa concreta, ben venga. Quindi sarà giovedì prossimo. Giovedì 21. Alle 18. So benissimo che in questo periodo siamo anche molto pieni di tante cose. Però come ho detto prima, questa è una cosa importante che riguarda comunque non solo al popolo cileno ma a tutti, tutte le persone, tutti i collettivi che lottano e che vengono repressi da, da questo tipo di sistema, quindi non è scollegato, e per questo vogliamo portare avanti questa mobilitazione. Si era pensato anche al consolato, però ci sono dei rapporti di forza magari un po' diversi, bisogna capire anche i rapporti di forza che ci sono in campo anche quel giorno, quindi anche delle cose che possiamo fare e delle cose che non possiamo fare. Quindi cercheremo un po' di informare, di tenere aggiornati anche su questa situazione per poter agire. Se avete dei consigli, avete delle domande, se no possiamo anche... E quello che hai detto te è anche importante, che non parliamo solamente di quello che sta subendo il Cile in questo momento come processo del fascismo in quanto alla politica e come sistema capitalista, no? Dentro lo che è l'economico. Sappiamo bene che è successo con Bolivia pochi giorni fa, che anche lì è stata ovviamente un'intervenzione che parla molto sugli interessi economici, e nel cui noi come popolo Mapuche sosteniamo in questo momento soprattutto i popoli originari, che sono quelli che in questo momento in Bolivia stanno subendo di più la violenza, la persecuzione, la repressione di questo colpo di Stato. Perché sotto tutto questo c'è sempre lo stesso, il dinero, il potere, l'intromissione capitalista. E quindi parliamo anche di Haiti, che si parla molto poco, che anche loro sono sotto assedio di violenza. L'Ecuador continua le manifestazioni, invece si parla poco e niente, perché anche loro sono in un processo di vedere come si esce di tutto questo. Dell'Argentina. E anche Argentina, il Brasile, Argentina, con Bolsonaro. Ci sono le manifestazioni anche in Argentina. E andiamo più di là, come e sempre. Venezuela. E ieri hanno cominciato nuovamente bombardamenti contro il popolo palestinese da parte di Israele. Le nostre compagne e compagne del Kurdistan che continuano a lottare contro il fascismo di Erdogan, e quindi Hong Kong. Libano. Cominciamo a nominare che non finiamo possiamo più. Possiamo fare una però, lista enorme. Come se diciamo, sono tutti i popoli che stanno resistendo, lottando contro lo stesso nemico, no? Che è il capitalismo, il fascismo, il neoliberalismo. E quindi, come dice qualcuno, è il tempo che con l'nemico non si parla più, l'nemico si distrugge, e quindi noi dobbiamo fare parte di questa distruzione, dobbiamo essere consapevoli che alla fine questo va a colpire le nostre vite. E abbiamo davanti un grosso nemico che sono i potenti, che sono chi ci governa, no? I politici. Però non dobbiamo abbassare la testa per questo, dobbiamo credere anche che tutto quello che riusciamo a fare da poco può servire a qualcosa. Quindi ricordiamo la informazione, la denuncia, la diffusione è importantissima, e se riusciamo a fare azioni più concrete è molto meglio. Nel caso del Cile io lo dico anche perché ho dei connazionali, non so come dire, che è una parola che non mi piace, compatriota non mi piace neanche, dei paesani che non mi vengano a parlare di pace in questo momento in Cile, non mi vengano a parlare di pace, perché compagne secondo loro stanno distruggendo un paese, lo stanno distruggendo materialmente, perché vedono questo come una violenza. La violenza è la povertà, la miseria, la disigualdà, la ingiustizia, la impunità che c'è in Cile da tanti anni, questo è la violenza. Non avere una casa, non avere un servizio di sanità. Non avere una casa, quello è una violenza. Non poter studiare. Quindi noi rivendichiamo tutte le forme di lotta che si stanno in questo momento portando avanti in Cile. Tutte. Non ci sono differenze. La violenza in questo momento lo sta facendo lo Stato. Il terrorista è lo Stato, no il popolo. Il popolo sta solamente esigendo i diritti, quelli minimi. Non sta chiedendo niente di più. Quindi quando io vedo certi commenti di certi cileni e cilene che parlano di questa pace, come si fa a non rispondere a questa violenza quando noi siamo da qua, noi siamo privilegiati in questo momento, stiamo vivendo un lutto da lontano, però non siamo noi che stiamo dando la faccia nel corpo a questa violenza. Non mi potete parlare di pace quando sono loro che sono torturati, che sono aggrediti, che sono violentati, che sono uccisi, che sono desaparecidos. E quindi penso che il concetto qua lo dobbiamo cambiare. Non riesco a capire perché cantano l'inno nazionale. Non riesco a capire questa cosa. Non riesco a capire perché cantano l'inno nazionale, che è lo stesso inno che cantano i militari, che cantano i carabinieri, e che poi quello che dice è proprio una bugia, che va contro quello che dice quella canzone. A ballare cueca, a fare feste nelle manifestazioni. Qua c'è un dolore grande, questo non è festa, questo non è carnevale. Ci vuole un momento di rispetto, ci vuole anche una maturità politica, che io posso capire che certi giovani cileni non hanno, però dobbiamo anche capire che questa situazione è drammatica, è politicamente importante e che si deve affrontare del modo come si sta facendo adesso in Cile. Per noi è un dolore, non una festa, non un carnevale. E quindi dirmi che in questo momento la destra e la sinistra la stessa, per me no. La destra e la sinistra non la stessa, perché siamo arrivati a questo punto, anche se hanno fatto tanti sbagli grandi i governi precedenti in Cile, comprese anche quelle di sinistra, se siamo arrivati a questo punto è perché abbiamo un fascista che ci sta governando e che ci sta applicando tutta questa violenza. Io so bene di che parte sono e sono stata e sarò sempre. Quindi se dobbiamo chiarire le idee, perché a parole possiamo dire tanto, noi siamo alla distanza, ma massimo rispetto con i nostri compagni e le nostre compagne che stanno dando la vita per la dignità. Grazie. No, perché la rivoluzione, scusami, sì. Sì, perché in un cartello così, se io lo vedo per dire, la rivoluzione che c'è scritto in un cartello così, la rivoluzione non la farà mai la destra, in questo senso, parliamo dei politici di destra che a me veramente me ne frega, o partiti di destra che me ne frega veramente, partiti in generale, io sono antipartidaria, la rivoluzione non la farà mai la destra, né come partito, né come popolazione, la rivoluzione in questo momento la sta facendo il popolo, già sia inteso tra virgolette di sinistra o come diceva la compagna, il popolo, quello che soffre, subisce la povertà, la miseria. E quindi io capisco, perché te conosco anche, che non l'hai fatto in quel senso lì, però ovviamente come dice lei può essere una visione sbagliata, no? O che mi vengono a dire come ho sentito, anche di questo che sta girando adesso, che tutti i manifestanti che sono morti erano quelli che stavano saccheggiando o rubando in Cile. O sea, questo veramente per me è gravissimo e è molto doloroso. Quelli sono anche compagni e compagne. E tanti di loro, come ha detto la compagna, sono stati prima, li hanno prima sparati, dopo li hanno buttato dentro il supermercato e hanno bruciato il supermercato per dire, ah, questi stavano saccheggiando. E quindi quando io sento un mio paesano che dice queste cose, a mí veramente me viene el terror y veramente me siento malísimo, porque este mensaje no puede pasar, porque no es así. La gente no está muriendo porque está andando a robar o está andando a saquear. Está muriendo asesinata de la divisa que envía Piñera. Adesso. Esatto. Ci hanno saccheggiato per 47 anni, quindi... E questo è il nostro momento, quindi lo dobbiamo rivendicare, lo dobbiamo portare fino in fondo, capendo tutto quello che significa. La sua sorella, che una compagna mi diceva l'altro giorno, nonostante tutto noi continuiamo nelle strade, mi ha detto, però io c'ho dei momenti che non ce la faccio più, mi ha detto, io sono esaurita mentalmente, psicologicamente, emozionalmente sono esaurita di vedere tanta violenza, di vivere questa repressione. Perché quello che sta succedendo, mi ha detto, ti stanca anche, soprattutto emozionalmente, quindi io posso capire che anche per loro giustamente no, non è facile. Parliamo tanto della repressione fisica, ma c'è anche questo che è la testa, no? E quindi anche quello è di comprendere e di sostenere. In un giorno. Una figura politica che ha vissuto delle figure politiche, cioè del Tito, dell'Agos, e andiamo avanti, la Camilla Vallejo, che quando era alla selezione studenti in Santiago, in Cile, diceva no, rivelate, rivelate. Poi quando è andato al congresso faceva reprimere i compagni. Gli studenti ha fatto reprimere lei, la Carlo. Chi? La gente per un interesse proprio, come sono stati loro, sono al congresso, c'erano lo stipendio a vita loro, capito? Adesso sono lì. La gente per sfida dello Stato non c'erano più paura della vita. Guarda la TV in Italia, guarda la TV nel periodo di Pinochet, lo stesso. Ma noi ce l'abbiamo con Francisco. Gli italiani non si sveglieranno. Appunto. Il compagno l'altro giorno ci diceva lo stesso. L'alternativa territoriale. Rainer. Rainer, che per finire. No. No, per finire le volevamo chiedere un'altra cosa, come ha detto la compagna c'è la mobilizzazione oggi per Camilo Catrillanca, compagno Mapuche che è stato assassinato l'anno scorso, un anno della sua ausenza, è stato assassinato dal comando giungla nella comunità Mapuche di Tumuicuicui, quindi io volevo leggere brevemente quello che ha scritto la sua mamma e anche chiedere se dopo possiamo fare una foto con un striscione per commemorare oggi la memoria ribelde e combattiva di questo figlio della terra Mapuche, che invieremo dopo alla comunità di Tumuicuicui per abbracciarsi dalla distanza con il popolo Mapuche in questa giornata. La parola delle madri di Camilo Catrillanca, compagno Mapuche ucciso del comando giungla di Piñera in Cile l'anno scorso, 14 novembre dell'anno scorso. Figlio, ti ho generato coraggioso, ti ho vestito con l'eredità di una nazione guerriera. Ho tessuto i tuoi abiti ogni notte, tu sognavi alla mia voce. Il mio cantù, io cantavo alla libertà. Figlio, ho forgiato la tua lingua nostra con sole di terra, acqua di mare, con Sajenco, Mancu, Carultù e Laguen. Figlio, la tua voce si ascolta nell'azzurro, c'è l'eco del tuo Guillatun. La tua voce grida l'ingiustizia. La tua voce, figlio, la tua voce non la spengono con i proiettili, si perpetua sul tuo corpo massacrato. Figlio, ti hanno strappato i giorni, figlio mio. No, non muoiono quello quelli che sono nati nella resistenza, non muoiono quelli che hanno abbracciato la loro terra madre con la propria vita, non si uccide vigliacamente alle spalle chi presenta il petto alle pallottole. Figlio, ti sto piangendo, un singhiozzo che lascerà l'esistenza. È vero che ti sto piangendo e mentre ti piango vado partorendo una nuova resistenza. Ti ho partorito e ti ho chiamato Lemun, in un'altra volta ti ho chiamato Mendoza e di nuovo sei stato Catrileo. Ho visto i tuoi occhi Anahuel e ti ho partorito Marileo. Ti ho chiamato Weishafe, ti ho forgiato al fragore della nostra resistenza. Ti ho partorito e torno ad abbracciarti nel tuo volo, Camillo Catrillanca. Non si uccide alle spalle chi ha presentato il petto alle pallottole del capitalismo. Se perpetua il suo nome, Weishafe per scrivere col sangue versato la inevitabile storia di un popolo che si rivela e che si libera come il popolo Mapuche. Per Camillo Catrillanca e per tutti i caduti sotto la lunga e falsa democrazia cilena. E se possiamo fare la foto, saremo molto graditi. E qua c'è il bicchiere che ha inaugurato il compagno per i compagni e le compagne cilene in resistenza. Grazie. Grazie a tutti e a tutte per essere venuti. Speriamo che continuiamo a aggiornarci. Ah, è giovedì prossimo, 21, alle ore 18, davanti alla sede al Palazzo di Enel. Però faremo, mi pare, un... Sì, Piazza Cadorna, il... come si chiama? Il appuntamento. Non si mangia, eh? Mate, come stai?